Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì qui a Radio 24 per parlare di trasporti e logistica. Questa volta partiamo da un ponte, non dal ponte di Genova, ma dal viadotto Himera lungo la A19, la Palermo-Catania, la principale arteria di collegamento dell'isola. È una storia piuttosto lunga. Era l'aprile del 2015 quando, a causa di un movimento franoso, venne giù uno dei piloni del viadotto, spezzando così in due la Sicilia. Per anni i lavori hanno proceduto a singhiozzo, tra disagi, lentezze burocratiche, varianti d'opera e una coda infinita di polemiche. Negli ultimi mesi finalmente la svolta, e qualche giorno fa sono iniziati i vari in quota dei conci del nuovo viadotto. Siamo in linea con il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, finalmente, dopo 5 anni, il nuovo ponte prende forma. Ma io sono molto soddisfatto perché questo cantiere più di un anno fa era davvero un cadavere per effetto di una serie di problemi che c'erano fra le aziende, la stazione appaltante e insomma tutto il resto. Lo abbiamo ravvivato da settembre, quando sono arrivato ha avuto priorità uno per me, anche perché questa è una grande pagina di vergogna, ecco, non solo della regione siciliana ma di tutto il nostro paese. Abbiamo rimesso in piedi e con, diciamo, la giusta concorrenza con il ponte di Genova alla fine abbiamo cominciato a correre. Ora, come è improprio dal punto di vista economico, il confronto lo è anche dal punto di vista dei tempi, certamente. Però nessuno può dire che da settembre 2019, da quando sono entrato al Ministero delle Infrastrutture, su questo cantiere e su tanti altri non ci sia stata un'accelerazione importante, e arriviamo con quella data che io continuo a ripetere a sprombattuto: il 31 luglio io voglio percorrere quel viadotto e ridarlo ai siciliani. Ecco, ora si parla tanto di ripartenza, una ripartenza che non può che accelerare un grande piano di modernizzazione infrastrutturale del paese, a partire proprio dal sud. Su questo siamo tutti d'accordo, però poi le strade, le ferrovie bisogna farle, Cancelleri. È arrivato il momento, secondo me, da questo grande momento di difficoltà, di farlo diventare con intelligenza un momento di opportunità. Abbiamo ben capito tutti che se vogliamo uscire da questa crisi, che adesso è diventata una crisi nera ed economica, dobbiamo investire, e l'architrave devono essere le opere pubbliche e i grandi investimenti che ci sono all'orizzonte. Da un lato un riavvio dei cantieri e del lavoro in Italia grazie ai soldi che ci sono nei contratti di programma di ANAS e di RFI, lo ripeto, 109 miliardi già finanziati negli anni passati e che ancora aspettano, presente, di essere spese. Li dobbiamo spendere con la stessa velocità che abbiamo avuto a Genova, quindi con intelligenza, snellendo le procedure sia autorizzative che anche realizzative. E per fare questo abbiamo bisogno di una struttura commissariale che deve essere direttamente alle dipendenze del Presidente del Consiglio e che deve dare le risposte immediate a tutti. E Matera, che non era servita al treno quando era capitale italiana della cultura, ma è un posto dei più meravigliosi che abbiamo in Italia ed è davvero una cosa incredibile. Dobbiamo attrezzare il sud, perché se attrezziamo il sud e azzeriamo il gap infrastrutturale, l'Italia diventa un paese più moderno e migliore, e il nord comincia a correre ancora più veloce grazie al fatto che il sud lo ha raggiunto. Questo non significa azzerare gli investimenti al nord, sono importanti, ne dobbiamo fare tanti. Faccio solo un esempio: i ponti del Po, una grande vergogna in una regione come la Lombardia, che invece ha bisogno di quelle infrastrutture e che dobbiamo realizzarle immediatamente, non c'è altro tempo da perdere, e possiamo farlo soltanto se rinunciamo a un pezzo di burocrazia. Dico, è un piano in 3 anni, per questi 3 anni facciamo a meno di qualche regola, facciamo più controlli antimafia, di sicurezza, di legalità, perché dobbiamo finalmente spendere quei denari che abbiamo e tutti gli altri che chiaramente arriveranno per creare tanti posti di lavoro e rispondere alla crisi economica in questo modo. Giancarlo Cancelleri, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, grazie e buona giornata. Grazie. Rimaniamo a parlare di infrastrutture. Con il passare delle settimane si fanno sempre più pesanti le conseguenze dei cantieri aperti sul nodo autostradale ligure per la messa in sicurezza e la manutenzione delle gallerie, interventi per lo più scattati dopo le verifiche degli ispettori del Ministero. Tratti chiusi, scambi di carreggiata, code, incidenti. Partiamo da qui con il prossimo ospite, che è Maurizio Longo, segretario nazionale di Trasporto Unito. Buongiorno anche a lei. Salve. Allora, il caso Liguria è, potremmo dire, la classica dimostrazione di cosa significa per l'autotrasporto una rete infrastrutturale ormai da tempo inadeguata rispetto alle esigenze della logistica. Lungo. Sì, siamo alle solite, c'è sempre il problema infrastrutturale, cioè la funzionalità delle infrastrutture che non fa che lievitare i costi, i tempi di consegna, difficoltà di ogni tipo. A Genova in modo particolare, ma anche in altre parti d'Italia, abbiamo vissuto anche la questione dello stretto di Messina, vi sono anche altre strozzature qua e là, e quindi diciamo l'idea delle infrastrutture e della loro funzionalità deve essere messa al centro della questione, perché è inutile pensare di rilanciare l'economia quando invece poi ci troviamo strozzature economiche, perché le distanze oggi sono sempre più economiche piuttosto che geografiche. Significa che anche per questo il nostro autotrasporto ha un deficit competitivo, diciamo, strutturale. Non c'è dubbio, oltre alle infrastrutture ci vuole anche un asset, diciamo, riorganizzativo sui tempi di carico e scarico, altro nodo cruciale che prima o poi dovremmo risolvere, dico, in maniera definitiva, perché abbiamo una norma, una disposizione di legge che prevede che dopo 2 ore di franchigia noi dovremmo ottenere un rimborso, questo non avviene, ma non è tanto il problema del ricevimento di questo rimborso, il problema è reale, nel senso che se l'economia mi dà produttività attraverso tempi di carico e scarico accettabili, l'impresa di autotrasporto acquisisce, diciamo, elementi di competitività certamente diversi rispetto agli attuali standard, perché parliamo di una media di 6 ore in molti centri di carico, non va bene. Ecco Lungo, venendo al momento contingente, in generale dopo il lockdown l'autotrasporto sta manifestando segnali di palese sofferenza. Come intravede le chance di ripresa? Guarda, la nostra crisi oggi è composta da 3 livelli, diciamo liquidità, calo del fatturato e difficoltà operative, che sono ovviamente contingenti al momento attuale. Io immagino una ripresa certamente difficoltosa, ma tutto dipenderà dai provvedimenti che porteranno, o speriamo portino a regime, tutte le attività legate all'industria, ai consumi, eccetera, perché noi dobbiamo sperare che queste misure all'interno del decreto rilancio e altre misure possano ripristinare, diciamo, un'economia e riportarla a regime ante emergenze sanitarie. Maurizio Lungo, segretario nazionale di Trasporto Unito, grazie e buona giornata. Grazie a voi. Dalla scorsa settimana sull'autostrada Brebemi e sulla tangenziale est-esterna di Milano è scattato il pedaggio ridotto per i veicoli full electric e per i tir alimentati a GNL, cioè il gas naturale liquefatto. La riduzione è del 30%, secondo i concessionari si tratta di un segnale di incentivo alla mobilità ecosostenibile, oltretutto in un territorio pesantemente colpito dall'emergenza sanitaria di questi mesi. Agevolazioni analoghe sono in atto da tempo sulle autostrade in Olanda, Lussemburgo, Danimarca e Svezia. In Germania addirittura i mezzi pesanti alimentati a GNL sono esentati dal pedaggio. Recentemente la misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023. L'aggiornamento dai mercati oggi riguarda quello dei veicoli commerciali. Dopo il crollo di marzo, meno 70%, ancor più di aprile, meno 90%, a maggio si registra una ripresa. La diminuzione delle immatricolazioni di mezzi nuovi è stata infatti del 32,9% rispetto a maggio 2019. I primi 5 mesi si chiudono così con 46.260 immatricolazioni, vale a dire il 41,8% in meno rispetto al periodo gennaio-maggio dello scorso anno. E ora i dati sulla sicurezza lungo la nostra rete ferroviaria, dati che si riferiscono al 2019, a diffonderli l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. L'anno scorso sono avvenuti 76 incidenti, 70 sulla rete di RFI e 6 sulle tratte dei gestori regionali, in calo del 30% rispetto al 2018. A livello europeo siamo uno dei paesi più virtuosi, purtroppo però, come ricorderete, il 2020 si è aperto con il disastro del Freccia Rossa a Lodi. Nella relazione dell'agenzia viene sottolineato come i maggiori pericoli sono ai passaggi a livello. Per innalzare gli standard di sicurezza si procede con la loro eliminazione graduale attraverso la costruzione di sottopassi o scavalchi. Sul fronte dell'adeguamento tecnologico dei sistemi di controllo, ancora in ritardo. ritardo sono le linee dei gestori regionali. Questo dice appunto il rapporto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. Con questa notizia si chiude oggi hashtag autotrasporti. Vi ricordo l'appuntamento del sabato, Container, Massimo De Donato in studio alle 13.15. È un appuntamento di approfondimento su questi temi. Noi con questo programma ci risentiamo lunedì alle 13.45. Ora gli aggiornamenti delle 14 con il GR d'Andrea Ferro. Una buona giornata. Hashtag autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.